Arizzate, sbalanga sa finestra renzerata, affacciate na griglia, ca dopo te le mitti collegata. Arizzate, guarda che bello cielo rischiarato, con tutte queste stelle te pare un lenzoio recamato. Arizzate, osia sta serenata, e dopo te remitti collegata. Se che me sento, io core vorinza, sapissi che tormento, non posso più cantare, con tutto so scompiglio, non saccio più che fa, aspetto agli astri. Arizzate, camò puro la luna sta vicino, e per vedene meglio sarei ingriccata in cima a Monterestino. Arizzate, e cala una griozza solamente, se potessi invogliata io me la coglio senza dite niente. Arizzate, osia sta serenata, e dopo termitti che me sento, io correvo rinza, sapessi che tormento, non posso più cantare, con tutto so scompiglio, non saccio più che fa, t'aspetto agli astreghi.